Jesus Carina, entra a fiamma e vive e sopra e viverà. Tra ciliegie ci corri e toccherai bandiera, dai limoni e farfalle ti ricorrerò. Giuseppina, la notte si avvicina, corri e danza, la notte arriverà. Ti aspetterà. Stay.